Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. La buona notizia del primo dell'anno è che il tradizionale bilancio della guerra dei botti la notte di San Silvestro si è conclusa senza morti, con un numero di feriti in calo rispetto agli anni precedenti. 190 in tutta Italia, erano 253 nel 2015, e forse il merito è anche dello stop ai petardi imposto da molti comuni. I casi gravi comunque non mancano, sono 16 e tutti concentrati nel sud. In provincia di Napoli il bilancio parla di 31 feriti, tra questi il più grave è ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli per lesioni ad un occhio e a una gamba. Sono invece 17 nel Salernitano, dove un 23enne è in ospedale in gravi condizioni per una mano spappolata. 4 i feriti nel Casertano, 2 dita amputate alla mano di un 40enne ad Andria, in provincia di Bari, mentre a Foggia un uomo di 53 anni ha perso la mano sinistra per lo scoppio di un petardo ed un ragazzo ha subito ferite gravi. Devo dire che c'è del paradosso nella domanda che mi sto per porre. Lo vedo soprattutto da cittadino di Roma, ma vale per tutta Italia comunque, perché poi il principio comunque è applicabile in tutte le città. Roma in questi giorni è una città blindata, sotto il Colosseo ci sono autoblindi, mezzi militari, gli autobus devono fare uno zig zag per passare per appunto via dei Fori Imperiali. Perché? Perché è chiaro, c'è un'emergenza terrorismo, quindi è una città blindata, si vede gente armata per strada. Allo stesso tempo i dinamitardi nostrani, quelli che in realtà non vogliono far male a nessuno, ma come avete sentito da questo triste elenco che siamo abituati a sentire ogni primo gennaio mattina, delle mani cioncate, delle ditine saltate, degli arti amputati, ecco, sono pronti anche loro a fare la loro piccola guerra per mantenere viva una tradizione. Quest'anno il sindaco di Roma ha vietato i botti a Capodanno. E vi giuro, sarà una delle risoluzioni che probabilmente da una parte la renderanno più impopolare, perché normalmente gli appassionati dei botti, quelli che già girano come drogati in cerca di sostanza da giorni e giorni in tutte le bancarelle, in tutti gli spacciatori di petardi, in tutti i luoghi sicuri dove i pochi informati sanno che si comprano le cassette esplosive, diranno: ma sì, rischiamo una multa fino a 500 euro, cominciano ad essere tantini per rischiare di fare i botti. D'altra parte avrà la massima considerazione, il massimo consenso da parte di tutti i proprietari di animali, che una volta tanto sentiranno salvaguardati. Una delle ragioni per cui è vietato nel centro, trovo che sia una cosa che è più che altro di civiltà, oltre un certo limite, fare botte, proprio perché i botti spaventano gli animali. Essendo ormai diventato centrale il possesso dell'animale nell'organizzazione della famiglia media metropolitana, i proprietari di animali dicono: finalmente non si faranno i botti per i nostri animali. Ecco, io quello che vorrei questa mattina sentire dal mio pubblico è capire qual è il vostro giudizio. Il divieto dell'esplosivo è autorizzato sotto Capodanno, che da un certo punto di vista sì, toglie un po' della gioia, della festa, ma potrebbe benissimo essere organizzato in maniera alternativa, ci potrebbe essere degli specialisti che fanno i botti per tutti, dei veri spettacoli pirotecnici, no? Le miccette lanciate da terrazzino a terrazzino, il razzettino condominiale, la castagnola e il trick track che si porta alla cenetta con gli amici e fa esplodere sotto la sedia della signora addormentata. Ma come la pensate? È il caso di smettere con questa sorta di guerra di Capodanno? È un Capodanno in cui siamo proprio così vogliosi di fare festa, di fare i botti e di chiudere in questa maniera? È giusto che la salvaguardia sia per gli arti amputati, per le dita saltate, per rischi innegabili che ci sono, perché l'elenco delle manine saltate comunque c'è sempre, c'è ogni anno, qualche anno più, qualche anno meno, qualche anno sono più feriti, qualche anno sono più lievi, comunque ogni anno c'è qualcuno che ci lascia le mani. Perché? Perché non siamo dei bombaroli dinamitardi, è chiaro che una volta l'anno non si ha la maestria, la destrezza nel maneggiare quelli che comunque sono degli oggetti pirotecnici, e quindi ci rimane sempre attaccato qualche dito. Oppure è fondamentale, centrale, la salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe, che la notte di Capodanno, che la notte di Capodanno sembrano andare in una sorta di delirio. Perché? Perché giustamente un cane si spaventa, non capisce cosa sta succedendo, e un gatto la stessa cosa. 800240024 sta chiamando Marco velocemente. Sì, buongiorno Nicoletti, volevo farle una proposta. Innanzitutto trovo abbastanza irritante che voi continuate a parlare di botti, mentre da appassionato le dico che ci sono i botti e i fuochi d'artificio, che sono cose un po' diverse. Beh, i botti quanto esistono, scusi, perché non esistono i botti. Quelli che compra un geometra, un ragioniere, se li porta a casa nascosti come comprasse cocaina e li fa saltare sul terrazzino, come li chiama? No, infatti. E allora, se dico, esistono? Sì, però dico, un conto è quelli che sparano, come dice lei, che tirano di quelli sto parlando. Ho capito, ma ci sono anche i fuochi d'artificio che vanno in aria e quelli sono un'altra cosa. Allora io dico. Eh sì, ma si lanciano a piano terra verso i terrazzi alti e entrano in casa di qualcuno, non è che fanno piacere anche quelli. No, ma c'è, vabbè, ho capito, uno non deve essere scemo. Ma essere scemo accade, accade sempre, sì, comunque. Certo, questo però i fuochi d'artificio hanno una tradizione di centinaia di anni. Non ma è cosa che ho detto io? Se lei mi ascoltava con attenzione, ho detto. Si potrebbe organizzare nelle città dei professionisti che fanno dei veri spettacoli pirotecnici che sono belli a guardare. Succede, infatti. Ad esempio, io quest'anno vado a Trieste e assicuro ci sarà uno spettacolo organizzato da professionisti. Però le sto dicendo. Quelli sono tranquilli, quelli non hanno nessun tipo di rischio. Ok, allora io dico questo: facciamo questa proposta. Proponiamo di abolire, cioè, o di ridurre quantomeno i botti, quelli tipo. Appunto, che vengono sparati petardi per terra, che poi sono anche squalli, invece, onestamente appunto è uno squallore, teniamoli. Che poi li usano i ragazzini dei giorni prima, li tirano in mezzo alle gambe delle persone, diventa un gioco da ragazzacci, non c'è un divertimento vero, capito? Esatto. Dovrebbe essere lasciati all'attenzione di professionisti che fanno dei veri spettacoli pirotecnici che ancora ci lasciano stupiti, anche se è una cosa antichissima. Va bene, grazie, siamo d'accordo, grazie. Eravamo d'accordo. Ci sentiamo tra un po', 800 24 00 24, come la pensate? Fuochi d'artificio sì, fuochi d'artificio no, botti sì, botti no. Per umani o per animali? Qual è il punto di caduta? A tra poco. Brexit, referendum, terremoto, premio Nobel sono alcune delle parole che hanno contrassegnato l'anno che sta finendo. Parole difficili che abbiamo scelto di spiegare e raccontare anche ai più piccoli. Sono Federico Taddia e insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani vi aspetto a Terra in Vista, il 2016 spiegato a mio figlio. Grandi ospiti per piccoli ascoltatori, per capirci di più e farci capire meglio. Terra in Vista, il 2016 spiegato a mio figlio. Da martedì 27 dicembre, ogni giorno alle 13.30 su Radio 24. Melog. Cronache meridiane. Tutti i cani hanno paura del botto. Poi geneticamente ci sono dei cani che soffrono di più il botto, altri invece che lo patiscono meno. Per il cane Capodanno è un giorno come un altro, quindi improvvisamente gli scoppia la guerra intorno e lui non riesce a comprendere quello che succede, quindi naturalmente va a cercare la tana dove rifugiarsi. La prima cosa in assoluto è quella di non lasciare i cani all'aperto, quindi se il cane normalmente sta nel giardino, nel balcone, portarlo dentro casa. Io ho avuto esperienza di cani che presi dal panico praticamente hanno saltato la ringhiera e si sono tuffati nel vuoto. Evitare proprio al massimo di sparare botti con vicino a un cane. Ecco, questa è la voce di un capo della squadra cinofili della Polizia di Roma, Massimo Mancini, intervistato da Canale 25, che dice qual è l'effetto sui cani. Naturalmente esiste un criterio di valutazione a seconda del fatto che voi siate un possessore di cani, un amante di cani, un amante di animali, e consideriate primaria l'equilibrio e la salute del vostro animale, quindi dite non esiste sparare botti, sparare razzi, petardi, comunque sia fare nessuno spettacolo pirotecnico, perché tanti animali che stanno nelle case ne sarebbero psichicamente danneggiati. D'altra parte potreste anche avere invece pietà per le persone sconsiderate che ogni anno non riescono a resistere, andare dal venditore abusivo di fuochi artificiali, di effetti pirotecnici, comprano il peggio che c'è, ci sono cassette della frutta piene di materiale pirotecnico, le vedi la mattina sparse per le strade il primo gennaio, e comunque qualcuno di loro ci lascia le mani attaccate. Botti sì, botti no. E la ragione per determinare questa scelta deve essere a favore degli uomini o a favore degli animali. Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Sì, ho seguito la discussione che avete fatto e devo fare una piccola premessa. Io dico spesso che amo molto gli animali e infatti non possiedo animali. Comprare i botti è solo l'ennesimo caso di attività dell'uomo che è incompatibile con la vita e la salute degli animali. Io vivo in una città, a Genova, dove molte persone possiedono uno o più cani, e francamente si vede bene che la presenza degli animali domestici, soprattutto quelli anche di taglio un po' grande, è incompatibile con la vita in città. Questo è solo l'ennesimo caso. Sfonda porte aperte, lo penso anch'io spesso quando vedo dei giganti entrare in degli appartamenti, dire io amo questo animale, lo costringe a stare in un appartamento, un cane che è nato per scorazzare, per correre. Noi ci illudiamo che al cane basti il nostro affetto, sia come un essere umano che si appaghi elaborando il sentimento, fa una vita schifosa perché il suo gestore è contento di avere una massa di pelo nella quale attribuisce qualità di reciprocità. Se volesse veramente bene a quell'animale dovrebbe portarlo in un bel prato, farlo star bene, scorazzare, vivere all'aria aperta o vivere in uno spazio ampio, non nello schifo della città. Stiamo parlando praticamente dello stesso problema, cioè la capacità degli individui, dei cittadini di convivere con le privazioni. Cioè la maturità di un individuo si misura anche dalla sua capacità di privarsi di piccole soddisfazioni che poi alla fine sono i materiali, saper rinunciare a fare i botti, saper rinunciare a possedere un animale perché si capisce qual è l'effetto sulla società o sull'animale in questo caso. Quindi lei, diciamo, non giustifica il proibizionismo del botto in quanto attività antianimalista, ma non giustifica nemmeno l'animalista e poi vorrebbe condizionare gli altri perché c'ha il cane in casa. Insomma, se lei dovesse fare una scelta fra chi si spara il razzo nel terrazzo e chi dice non puoi spararlo perché al piano sotto io c'ho il cane e mi dai fastidio, a chi darebbe la libertà d'espressione? Questa è una domanda secondo me leggermente mal posta, non è... La ponga esattamente, in un condominio io ho libertà di fare i miei botti nel terrazzo e voglio farli, lei mi busta e dice no, guarda c'ho il cane, non li puoi fare, chi c'ha ragione? No, ma non è per il cane, è il discorso di libertà, cioè... No, poi la metto proprio esattamente così, c'è un vicino col cane, dice guarda il mio cane si stressa, scusa, non fa... Ma allora le posso porre la stessa domanda girata in un altro modo, sono libero di possedere un cane di grossa taglia in un ambiente inadatto a lui... Dove sporca, oppure devo limitare questa libertà per permettere di avere un maggiore decoro in città? In questo momento nessuna legge lo vieta, quindi in teoria entrambi sono liberi, a parte l'ordinanza Raggi a Roma, ma in tante città uno compra il razzo. Poi, fra l'altro, l'ordinanza Raggi non bisogna spararli a 200 metri dalle persone, e quindi meno di 200 metri da centri abitati e di persone animali, quindi in teoria se una casa un po' in periferia sulla via Cassia le ultime propaggini me lo posso sparare il botto, ma se al piano sotto c'è il vicino con il cane mi dice no, non lo sparare, dà fastidio al cane. Guarda che è un dilemma, il vicino ha tutto il diritto di tenersi il cane, io ho tutto il diritto di spararmi il razzo, chi di due secondo lei ha maggior diritto di esprimere il suo desiderio? Guarda che una domanda sarà mal posta, ma è una domanda coerente perché è questo il tema della trasmissione. Ma non è un conflitto di diritti, è semplicemente concentrarsi sui problemi che sono alla radice. Per esempio, dovremmo concentrarci sul problema dell'inquinamento acustico, che è un problema generale, cioè siamo interessati all'inquinamento acustico perché l'esplosione di petardi ha un effetto sull'inquinamento acustico, come c'è dal traffico. Sì, ma uno dice, sai, la notte di Capodanno si fa festa, una tradizione che ormai da tanti anni, se non ci sono i botti sembra un Capodanno triste, sembra che ci sia il coprifuoco. Le dico tutte le ragioni, io aborrisco i botti perché l'ho fatti tanti da ragazzino, ma ormai, e poi l'ho fatti che vivevo in campagna, vedere Roma che si illumina dai terrazzini con i trick e track squallidi mi fa un po' ridere. Poi diventa una guerra fra condomini, fra terrazzi, soprattutto nei terrazzi, chi li spara più vicino alle persone dell'alto terrazzo. Sono anche tristi, non è un grande spettacolo, però non mi ha risposto. Sentiamo se Anna Maria mi risponde. Anna Maria. Pronto, buongiorno. Le faccio la domanda, nello stesso condominio c'è un signore con diritto di potersi sparare i suoi botti nel terrazzino e un signore nel piano di sotto che ha un cane. Chi dei due avrà libertà di o sparare i botti o di non spararli per fare star bene il cane? Una domanda difficile, secondo me non dovrebbero sparare, io sono contraria, non ho cani, però mi rendo conto che sparare non soltanto spaventa i cani, ma spaventa i bambini, spaventa le persone anziane. No, i bambini quelli si divertono come matti, no, bambini non sono gli tutti, unici. Quelli piccoli non si divertono affatto per il servizio personale. Quelli piccoli sotto l'anno di vita, certo, piangono. Non si spaventano, saltano dal letto perché i rumori sono tanti. Sì, si svegliano, quindi è vero. Secondo me sono proprio inutili, non capisco come possa divertire dei botti così forti che durante la notte alle 3-4 continuano a sparare. Io sono favorevole che non vengano sparati. Quindi lei per evitare il botto, va bene, è un punto di vista. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Senta, io... La stessa domanda, ormai la domanda è partita così. La domanda è partita così e la soluzione è semplice. Questo tipo di discorso si dirime solo in una cosa, che è una delle più deprecabili, cioè facendo discussione tra le due persone. E il più prepotente la vince. Secondo me, in un contesto in quando si festeggia la vita e la salute, forse di un animale, che è una persona un po' più sensibile delle altre, va tutelata. Anche perché Stefano, se noi vogliamo poi metterla sulla faida non si finisce più. Quello, sì, col botto, quello col botto, ma tu col tuo cane che abbaia, ma è massacrato diritto, tutto l'anno, io quest'anno ti massacro. Sicuramente il 31 dicembre non si va dal giudice, la cosa finisce su fare lite tra persone. Però lei non mi ha detto qual è il suo momento di festeggiamento. Stefano, non mi ha detto qual è il suo lavoro però lei. Io sono un tecnico di radiologia, lavoro in un ospedale. Ecco, quindi lei ha un'esperienza, in un soccorso, un'esperienza professionale. Cosa vede lei? Vedo che la gente si fa male, molti ragazzi si fanno male, anche molti adulti che dovrebbero essere un po' più maturi si fa male, e per quanto le persone si sforzino, i medici, di tagliare, cucire e rimettere insieme, spesso rimangono con inabilità permanenti che li pregiudicano poi le attività lavorative, ammesso che le facciano. Quindi Stefano, e in qualsiasi deve città deve pure riconoscere un trattamento di supporto sociale, una pensione, una cosa. Ma certo, poi diventano invalidi a tutti gli effetti. Sì, diventano invalidi poi. Cioè, questo loro sfogarsi ha anche ripercussioni poi sullo Stato. È un costo sociale per tutti. Una persona che potrebbe fare qualcosa, avere una collocazione nello Stato, non ce la può più avere, o in parte non la può più avere, perché ha una menomazione che è diventata permanente, per quanto il chirurgo, la cosa che l'ha preso in carico, abbia potuto sistemare. Ecco, qual è la cosa peggiore che ha visto nel suo lavoro all'indomani del Capodanno? Io ho visto mani, braccia, anche volti distrutti da e anche ragazzi morti da esplosioni, perché poi c'è anche nel meridione, non tanto nella mia città. Lei che città, in che città vive? Bari, ma soprattutto si sa che anche c'è l'uso, ma anche a Bari, fortunatamente non mi sembra con conseguenze, di usare anche munizioni, armi. Cioè di sparare rivolverate dai balconi. Rivolverate, fucili, perché molta gente ci ha portato d'armi per via di caccia, di difesa personale o quant'altro. E in mezzo a queste cose, i proiettili vaganti sono una minaccia, soprattutto in luoghi affollati, non sono mica tutti a sparare in campagna, e anche poi, in campagna. Che se uno spara in aria a un certo punto ricade anche giù da qualche parte. Ricade giù un bossolo, in aria o a terra, certi usano i revolver piuttosto che i fucili come se fossero dei normali mortaretti acquistati da bancarelle più o meno legali. I fuochi li deve fare chi è professionista nel farli, e ci sono delle ditte che lo fanno. Sentiamo Margherita. Margherita, buongiorno. Ciao Gianluca, buone feste. Allora, diritto di botto o diritto di salvaguardia del povero cucciolo? Allora, guarda, io sono un animalista, quindi ovviamente quella notte lì per me è una specie di incubo, due cani e due gatti, per cui puoi immaginare. Ecco, come ti barrichi in casa per evitare? Semplicemente applico tutte quelle che sono consigli che danno qualsiasi veterinario. Ma cosa fai? Gli dai il Valium, gli metti tappi all'orecchio? No, beh, i miei sono abbastanza tranquilli. Io ho un'amica che aveva un Doberman che andava in panico e gli doveva dare le gocce. I miei hanno paura, però hanno una paura che si... Cioè lo Xanax al cane, poverino, se no gli venivano così. No, gocce di valeriana. Comunque i miei sono più, hanno una paura più, si rintanano. Cioè il mio si chiude in bagno, cioè, capito? Si rintana. Cosa fai? No, tu barichi le finestre, metti materassi? Chiudi tutto, magari accendi la TV, cerchi di non incentivare la loro paura rassicurandoli troppi, ma sono tutte cose che qualsiasi addestratore... Diciamo il momento dell'esplosione dei botti... State tutti abbracciati insieme? No, assolutamente no, perché poi così incentivi solo più la paura. Guarda che Angelo Vaira e Accentano hanno fatto una trasmissione apposta sulla vostra ammirabile radio. È la missione della loro vita, grazie. Sì, loro sì. No, però voglio dire, hanno fatto, sì, ci sono i consigli, ma qualsiasi veterinario te lo spiega. Quello si fa, li tuteli, li tieni dentro, cerchi... Quindi allora in teoria daresti libero sfogo a chi si vuol far male con i botti, tanto per i cani c'è un sistema di salvaguardare la loro tranquillità. I miei sono tutelati, perché io sono una persona coscienziosa, che quindi gli animali, tutti i suoi animali, se mi sono presa la loro responsabilità, giustamente, li tutelo. E problema c'è intanto la fauna selvatica, perché ogni anno, se basta che chiedete, se avete esperienza, conoscete qualche netturbino, vi può raccontare che ogni anno il primo gennaio si trovano centinaia di carcasse di uccellini, di scoiattoli, di topolini, cioè di animali selvatici che gli tuona il cuore. Dio, a Roma i topolini, lascia perdere Roma, se ne va qualcuno. I topolini di Roma mi sa che non hanno paura praticamente di nulla, cioè, si vedono ormai brucare l'erba nelle aiole del centro. Anche la parola topolini un po' è, sì, ma per Roma, a Roma girano i cinghiali ormai, che no, non credo, no. Ma comunque per un animale selvatico, comunque c'è la fauna selvatica, che è anche quella. Comunque io sono, essendo pure animalista, io cerco di avere una posizione tollerante, rispettosa, cioè se per qualcuno ci tiene proprio, mi sta bene, nel senso, io so che quelle due ore, quell'ora in cui il nostro sindaco spara... No, il sindaco l'ha vietato. I fuochi del castello, mi sta bene. Ma tu in che città vivi? Udine. Ah, Udine c'è libero mitragliamento tutta la notte. Non hanno dato ordinanze, mentre a Trieste sì. Qua c'è anche un po' la tradizione, perché tu conosci il Friuli, e sai che c'è il castello, che è un castello isolato, cioè un colle isolato nella piana, e quindi i fuochi dal castello sono una tradizione, e per cui cerco di essere tollerante. Io capisco che per quei 30 minuti sarà una Santa Barbara e boh, i miei cani sono dentro. Vabbè, vivi in una situazione di, spero vivamente, di concreto privilegio, perché sei sufficientemente adeguata alla gestione dei tuoi cani da metterli in sicurezza. Hai una città dove in fondo ti affaccia la finestra, vedi l'esplosione dello spettacolo pirotecnico dal castello, quindi alla fine, ma se tu vivi a Roma comincia la battaglia di chiuderti dentro casa e barricarti, perché arriva di tutto la notte e bisogna stare molto attenti. Fermiamoci un attimo, tra poco. Melog, cronache meridiane. Diciamo che una volta messo il cane dentro casa sarebbe opportuno appunto tenere sia il volume della radio o il volume del televisore un pochettino alto, di modo che attutisce un pochettino i rumori che vengono dalla strada. Diciamo che le coccole sarebbe opportuno non farle, in quanto il cane associerebbe al suo stato di paura, associerebbe una conferma che deve avere quella paura, cioè la coccola non fa altro che confermare che fa bene ad avere paura, quindi la migliore cosa da fare è quella di essere indifferenti. Ricordiamoci che un cane impaurito potrebbe tramutare quella sua paura e scaricarla in aggressività, e quindi c'è anche il pericolo che il cane morde. 800240024, ci stiamo ponendo una domanda che in realtà non ha una soluzione. L'ordinanza della sindaca Raggi ha stabilito che a Roma non si sparino botti, la pena arriva a 500 euro per chi contravviene a questa norma, lo si fa soprattutto per salvaguardare la tranquillità degli animali. Noi stiamo domandando al nostro pubblico quale sia il loro punto di vista, se vada salvaguardato il diritto di festeggiare comunque, uno creda, secondo una tradizione, per gli appassionati dei botti, che rischiano anche l'amputazione delle dita, però a loro piace far quello, quindi alla fine vedranno loro. O salvaguardare piuttosto l'integrità psichica degli animali, ma anche degli anziani, dei bambini piccoli, come molti dicono. I punti di vista che leggo dagli SMS sono di vario tipo. C'è chi da una parte mi dà del proibizionista, cioè volete togliere tutto ciò che è piacevole, ma non sono un proibizionista, mi pongo la domanda, per me non è fondamentale, ci siano o non ci siano i botti non mi cambia molto la vita, se sono dei bei fuochi artificiali mi piace vederli, ma la gazzarra del botto per il botto, sì, stai alla finestra alla fine con lo spumantino in mano dopo che Conti ha fatto il conto alla rovescia, fai gli auguri alle persone che c'hai attorno, una tristezza, non vedi l'ora di andartene a letto, ti affacci, vedi qualche bottarello, i vicini di casa si sparano le loro cartucce. Qualcuno dice che in realtà bisognerebbe togliere comunque i botti, al contrario, così sarebbero tutti più contenti. Ah, poi un altro che mi scrive: Nicoletti, quando farai coming out? Lo sappiamo che vai a voile e a vapeur. Ora, questa è una definizione codina, ipocrita, sacrestanesca, che andava molto negli anni 20, anni 30 per definire una persona bisessuale. Va a vela e vapore. Signori, vado a piedi, ma ammesso che vada a vela, a vapore, a motorino elettrico, a manovella, ma cosa gli cambierà la vita saperlo, no? Comunque, stia tranquillo, vado a piedi. Mario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Io ho sentito l'intervento, credo che sia del veterinario, io ho sbagliato. Io ho un gatto che è molto grande, il classico gatto appunto romano, io sono di Roma, è rosso e via, grosso e via, ma diciamo così un po' broccolone. E vista l'ordinanza... Cioè è quasi 31, un capretto come dimensione. Sì, è oltre 8 kg maschio, ma non è... 8 kg, è un gattone, certo. È un gattone, sì, è proprio... Maschio, modo di dire, l'avrà castrato. No, non è cazzato, assolutamente, perché non è alfa, per cui non sporca. Ed è, quindi va a vela e vapore anche lui, come dice. Forse andrà a vela e vapore, e vabbè, non fa niente. Gatto a vapore lo vorrebbero tutti. Sì, e quindi qual è il problema del suo gattone? Il problema è che il gattone, che praticamente è sotto casa mia, stanno sparando la sera ai botti, perché io abito davanti a un, diciamo così, a un grosso giardino libero, e allora... Già hanno cominciato da adesso? Sì, già hanno cominciato da adesso, io sono in periferia, insomma. Quindi l'ordinanza della Raggi non vale nella sua periferia? No, non vale, poi c'è l'ordinanza per il 31, per cui sparano prima, questo arrivate le voci dei corridoi. Questo insomma, non aveva valutato la sindaca, che la gente sparerà i botti fino al 30 a mezzanotte, si spara tutte le cartucce. Esattamente, allora hanno sparato due botti, il gatto è saltato naturalmente, è venuto in mezzo a noi e guardandoci praticamente gli ha detto: oh, ma che scherzo è questo, tutto a posto? Ha detto così poi, il gatto proprio, che scherzo l'ha è detto, questo? L'ha detto con gli occhi, perché è semiumano, e allora noi l'abbiamo un po' accarezzato. Lui si è messo lì tranquillo, come dire, ci state voi. Scusa, non può voler fare una sorta di cassetta imbottita di polistirolo dove lo mette durante il momento del bombardamento? Un isolamento acustico del gatto? Ma verrà sicuramente in mezzo a noi e via, cioè in mezzo a mia moglie, perché io, diciamo così, di mestiere faccio il tassista, sono uno dei tanti tassisti affezionati a Radio 24. Stai attento, perché va a vapore ma va anche a vela, quindi non lasci solo con la moglie. Sì. La moglie no, vabbè, al limite, dopo 28 anni di matrimonio, sarà contenta pure lei delle discussioni. Vabbè, abbiamo capito che è una bella famigliola, che alla fine l'ha risolta a ridere, e segnaliamo, per chi ancora non lo sapesse, che a Roma se li stanno sparando tutti in anticipo i botti, che aveva già comprati facendo lunghe peregrinazioni, transumanze finalizzate ai mitici spacciatori di fuochi, che vanno naturalmente da Gaeta in giù. Ecco, oggi se li sta sparando per paura di pagare la sanzione. Sandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Io sono contrarissimo ai botti. Perché? Perché danno fastidio a me personalmente. Il mio cane sta tranquillo, non gli fa niente. A me, io salto invece per i botti. Però io ho 66 anni e ricordo quando ero ragazzino, negli anni 60, non c'erano i botti, tutta questa roba qui, però c'era un'altra usanza anche a Roma. Cioè dalla finestra si buttava giù di tutto. Allora è vero, il problema era quello di il 30, il 31, il 30, di non parcheggiare, togliere le macchine dal marciapiede, perché altrimenti ti tiravano una roba sulla macchina, tu poi ritrovavi la macchina la mattina. C'è una scena intramontabile di un film di Fantozzi. Fantozzi fa il suo capodanno anticipato, gli tirano una tazza del gabinetto sulla sua bianchina e la distruggono. Ma questa non è un film, era realtà. Sì, tiravano di tutto, è vero, di tutto. Tiravano di tutto. I cocci, i piatti. Poi a un certo punto è arrivato un sindaco, pure a lei, non me lo ricordo chi fu, che disse: è proibito tirare i cocci di sotto. Ma guardi, è durata sicuramente 30 anni fa, ancora li tiravano. Io già stavo a Roma e accadeva di vedere i cocci per strada. Sì, quindi... durava fino a tutti gli anni 60 è durato, poi è finita questa storia qui. Però io dico tante cose, questa è una tradizione, cioè il botto, poi dura una giornata, cioè la notte del 31. Sì, noi se continuiamo a proibire di tutto, finiamo che non ci possiamo più muovere, cioè ci sono delle cose che sono diventate proprio introvabili. Non faccio un esempio stupido, la mozzarella di bufala, quindi mi dice che c'entra quei botti. Ma una volta la mozzarella di bufala te la davano sfusa. Adesso è tutta incartata, no? E cambia il sapore, ti cambia di tutto, perché viene conservata. Capisco, vabbè, perché era un po' zozza, una volta girava così, capito? No, vabbè, sì, ma io non mi è mai successo niente. Lo so, ma sono norme igieniche ormai acquisite a livello europeo. Certo, ma ormai è cambiato tutto, sta cambiando tutto quanto. All'epoca chi è che noi buttavamo tutti i sicocci per terra? Poi c'era Monnezzaro che raccoglieva tutto. Ma c'è quello che è Monnezzaro, dice che Monnezzaro da che? Io certo. Sono operatore ecologico. Si evolve, no, capito? Una volta si facevano tante cose. Tutto, però a Roma tagliavano anche la testa alla gente, la infilavano nelle lance sui ponti, mettevano una ruota davanti a Ponte Sisto e ci spezzavano la gente a martellate. Cioè, un pochino... era il Papa che faceva così. Era la sua, la città. Vabbè, non stiamo divagando, sennò diventa Radio Roma. Matteo, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, intanto io chiamo da Livorno, dove il buon Nogarin ancora non ha emesso nessuna ordinanza, però siamo in attesa. E a parte che ordinanza chiaramente ubi maior, per cui se c'è un'ordinanza non si spara. Allora, a Livorno sparate di solito? Ma guardi, allora a Livorno sparano assolutamente sì, anche delle grandi bombe, per cui quello però chiaramente è sbagliato. Tenga conto che io ho un cane il quale assiste ai miei spettacoli pirotecnici, non abbaia, non è preoccupato. L'ha addestrato alla guerriglia, chiaro. L'ho addestrato alla guerriglia, gli mettono anche la cartucciera l'ultimo dell'anno, no, a parte gli scherzi. Comunque sì, è addestrato, è tranquillo. Io vorrei essere comunque, io sinceramente vorrei andare a Udine perché vorrei vedere i netturbini del primo mattina a giro per i boschi a raccogliere tutti questi scoiattolini o topolini che ahimè muoiono. È veramente una scena molto bella. Se la signora l'ha detto, ci sono gli scoiattolini a Roma, in certe ville ci sono gli scoiattoli. Adesso non so che strage sarà di scoiattoli. Questo non lo so. Le pantegane comunque, secondo me uno non le elimina nemmeno con la lupara, quindi non credo siano i botti. Nemmeno con la lupara né col dialogo. E io penso che comunque i botti, vabbè, se non le vuol fare li faccia, e comunque se chiaramente si va a fare la spesa di botti a Secondigliano è chiaro che torna indietro. Ma lei dove le compra le bombe da Livorno? No, niente bombe. Vabbè, i razzi. Ci sono negozi specializzati qui vicino Livorno, ce ne sono almeno una decina di fabbriche ma i botti leciti si sa, sono bottarelli, i botti quelli veri, quelli con la cassetta della frutta, quelli mica si possono vendere. No, le posso garantire che se è maggiorenne lei può avere accesso a dei botti, se addirittura al porto d'armi può avere accesso a botti di un'altra categoria. Che c'entra il porto d'armi? Cioè io mica il porto d'armi mica per le bombe a mano. No, la vendita dei fuochi d'artificio si articola, c'è una vendita libera. Una vendita libera per anche i ragazzini sotto. Sì, quelli che vendono per strada. Bravo. I raudi e poco più, ecco. Bravo, sì, insomma, da roba da ragazzi. Le stelline, girandoline, queste cose. Sì, esatto, sono tutti. Sì, ma la roba tosta, quella lì che poi fa un botto che spacca le orecchie. La roba tosta lei la può comprare se ha porto d'armi o altrimenti se ha il fuochino, vale a dire se lei è autorizzato a maneggiare esplosivi, quindi quelli che fanno fuochi d'artificio o esplosivi in casa. Ci vuole la patente da dinamitardo, cioè da fuochino. Sì, ma se lei ha il patentino da fuochino, lei va in un negozio specializzato, in una fabbrica e li può acquistare. Ma i corsi da fuochino dove si fanno? No, sono interessato. I corsi da fuochino sono dei corsi specializzati, sono per esperti tecnici di escavazione in cava. Lei può quindi avere l'autorizzazione di Sì, ma per maneggiare l'esplosivo da cava, cioè per fare gli attentati dinamitardi, certo, non è la stessa cosa. No, vabbè, quella è una cosa, ma lei nel momento in cui ha il fuochino, il patentino, può acquistare. Si chiama fuochino, si chiama. Il fuochino, esatto. L'ha mai visto lei con questo patentino? Ho visto gente che acquista, certo, anche col porto d'armi. Però c'è una fiammettina con scritto fuochino, lei può comprare le bombe. Questo non lo sapevo. Lei c'ha il microzippo stampato sulla pelle, diciamo così. No, non lo sapevo. Vabbè, comunque interessante. Però ecco, chi fa i fuochi d'artificio ha i fuochi. Vabbè, sarà gente che va alle fiere, alle feste, lo fa per mestiere. Sì, certo, tenga conto che comunque si tratta di professionisti che non sono scemi. Cioè, sì, ogni tanto salta qualche deposito. Poi sono i depositi sempre quelli clandestini. Ahimè, quello è vero. Però ecco, io penso che nel momento in cui il problema dov'è? Il problema sta nel fatto che i ragazzi meno di 18 anni al mercato nero comprano bombe carta. Il problema è quello e quindi lì partono le mani. Sì, quelle che una volta, tanti anni fa, le chiamavano le palle di Maradona, oggi hanno altri nomi, cambiano ogni anno. Sì. Sono dei malloppi da 2 chili pieni di esplosivo da cava con la miccia. Ma i più grandi schianti che si possono fare si fanno comprando due medicine in farmacia e prendendo 2 lame d'acciaio. No, lei non lo sa questo. Le botte con clorato di potassio le facevo a 15 anni, ma esatto. Ne a 15, a 6 anni, esatto. Raschiando il salnito dalle pareti dei muri. Vabbè, sì, oppure oppure spolpandole certe medicine, certe sì, vabbè, da bambini si facevano. Sì, vabbè, però insomma. Facciamo saltare comunque, qualche formicaio al massimo. L'importante, comunque, auguri, buon anno col botto, però va bene, buon anno anche lei. Andiamo avanti tra un istante. 800 24 00 24. Abbiamo capito che esiste il fuochino, la patente per sparare botti come, dove, quando si vuole. E anche con il porto d'armi si può avere qualche bella soddisfazione. A tra poco. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24. Stiamo addentrandoci alla materia mai sufficientemente sondata dei fuochini, dei fuochisti, degli sparatori di botti, lasciando però, vedo, in secondo piano il problema degli animali. Ci sono meno telefonate a salvaguardia degli animali, perché penso che il problema poi sia risolvibile. Il problema invece della foglia da fuoco artificiale è più difficilmente risolvibile, è una dipendenza da cui si esce in maniera molto più perigliosa. Chiara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'ascolto. Allora, intanto io ritorno a parlare di animali, nel senso che, vabbè, in linea di principio io sono contraria ai divieti, ma li ritengo necessari quando servono a tutelare i deboli, e in questo caso, a mio avviso, i deboli sono proprio gli animali, perché le persone lo scelgono di mettere a rischio le proprie mani, i propri occhi, e quindi io non ritengo di doverle tutelare, anzi. Ma gli animali mica uno li fa saltare, si spaventano soltanto, non è che tirano i botti. Non si spaventano, ma rischiano di morire, ogni anno ne muoiono tanti. Ma di cosa? Di infarto? Di spavento, certo, l'infarto. L'animale è sensibilissimo, ha un udito molto più sensibile di quello umano, quindi se già per noi i botti possono essere fastidiosi, per un animale sono terribili. Io ho sempre avuto cani, gatti, animali, e fino a 11 anni fa i miei cani non avevano paura dei botti, erano cani tranquilli, meno sensibili, e da 11 anni ho questo meticcio, ho preso al canile, quindi probabilmente anche un cane con un vissuto particolare, e lui è terrorizzato, lui anche i tuoni, anche i rumori forti, non vi dico il terrore che prova quando ci sono i botti. Lei dovrebbe mettere la foto del suo cagnolino macilento e terrorizzato sul portone del condominio e dire: guardate, evitate di far soffrire questo povero animale, potrebbe essere questo un deterrente. Ho la fortuna di non abitare in un condominio, abito in una casa con un bellissimo giardino. Qui spendo una parola a favore degli animali che vivono in casa, anche animali di grossa taglia. Il mio cane è grosso, è circa 45 kg, ha un ampio giardino dove può correre e scorrazzare, ma lui sceglie di stare con noi, quindi per portarlo in cortile noi dobbiamo scendere in cortile con il cibo ce l'ha dentro casa, che sceglie sì, sta meglio. Come? Il cibo sta dentro casa, sta al calduccio, sta più comodo sul divano che... No, lui non sta sul divano, lui sta con noi, cioè il cane è un compagno fedele, e quindi lui sceglie sempre le persone, cosa che tante persone invece non fanno. L'animale, soprattutto il cane, sceglie gli amici, sceglie le persone. Sceglie le persone che lo mantengono soprattutto. Giustamente, ma fa bene. Abbiamo rinunciato al Capodanno perché i nostri vicini di casa, villette, quindi noi abitiamo in una zona alla periferia di Torino, anche molto tranquilla, però i nostri vicini erano degli amanti dei botti, e quindi noi per molti anni, per 8 anni, non siamo più usciti, non siamo più andati da amici per stare con questo cagnone. Sono scelte di vita, ognuno fa le sue scelte. Certo, avete rinunciato alla socialità perché per stare vicino al cane che soffriva per i botti. Sono scelte di vita, liberissime di fare le proprie scelte, però la sua scelta si autoconclude nella sua azione. Lei non obbliga nessuno a fare azioni diverse. Sta accanto al suo cane perché il cagnone soffre per i botti, quindi lei rinuncia a qualcosa e non chiede altri di rinunciare a nulla. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, è un onore parlare con lei. E adesso? No, è vero, lo penso davvero. E io il mio intervento è un po' in tono polemico. Allora, perché diciamo che io non sono diciamo che gli animali mi piacciono, un gatto, però io penso che, allora, non sono neanche a favore dei botti, cioè nel senso penso che se la gente li vuole fare che li faccia pure, nel senso si può anche sopportare quella giornata di festeggiamenti, ecco, però l'assurdo è farne un caso per la l'animale, perché io penso che a livello Italia ci siano un sacco di persone che durante tutto l'anno soffrano anche alcuni vicini proprietari di cani, perché il cane durante i 365 giorni all'anno o abbaia continuamente, il vicino che ha il cane che ulula e cose di questo genere. Quindi io dico, cioè, per quella giornata l'anno che questi poveri cani, cioè, sono infastiditi da festeggiamenti degli umani, cioè, farne un caso, secondo me, mi sembra proprio... Ma infatti, per qualcuno è un giusto contrappasso, come ci avete massacrato le orecchie tutto l'anno col cane che sbraitava, abbaiava, graffiava quando voi non c'eravate, beccatevi una volta l'anno. Io guardi che durante l'anno vicini che vanno in vacanza lasciano i cani, il tuo vicino che appena mi affaccio alla finestra mi abbaglia nelle orecchie, cioè, ma tutto l'anno, cioè, io dico, per una giornata di festeggiamenti, che poi non è una giornata, sono con lei, a questo punto di vista sono con lei, non dovrebbe esserci cani che disturbino gli altri, il cane è un diritto avercelo, ma nei limiti che non sia una molestia per gli altri. I cani isterici che nel balcone appena si affaccia qualcuno abbaiano sono cani infelici, non stanno bene, non è che fanno guardia a casa, perché se venisse il ladro quel cane lo farebbe fuori in 30 secondi, quindi non salvaguardano nulla, rompono solo le scatole agli altri, e chi ha un cane, se è cosciente, farlo stare nelle condizioni che non sia stressato e che non abbai. Giorgio? Sì, io direi botto libero, rispettoso ma botto libero, veramente ci fa tornare anche bambini il fuoco d'artificio, la stellina, il missiletto, tutto regolare, come diceva il suo ascoltatore. Nei limiti che non siano diciamo un bombardamento delle case altrui, uno fa il botto lì. Esattamente, certo. No, sempre con le giuste precauzioni, certo. Però è una tradizione. Le dico questo, anch'io ho un cane, mi divertiva la persona di Livorno, ma forse perché abito a Monte Mario a Roma, l'ho sempre portato sotto a Villa Miani, lì Lilton, a fare passeggiate la sera, e lui con i botti è abituatissimo, quindi anche quello è un fatto di abitudine, non è stressante. Tra l'altro un cane piccolo, quindi non è un cane coraggioso, però botto libero è meraviglioso, vedere i fuochi, i bambini impazziscono. Sì, ma io sono molto laico in questo, non mi scandalizzo nemmeno a vedere le mani cioncate il giorno dopo, dico, oggi chi non sa che il maneggiare imprudente i fuochi d'artificio fa saltare le mani, evidentemente se li va a cercare, ma è detto, lei guardi, cominceranno da domani, dopodomani, ci saranno fior di poliziotti, carabinieri, finanzieri, artificieri, vigili del fuoco, che diranno in tutte le trasmissioni, attenzione, non maneggiare il botto così, non tenere il razzo in mano, non andare a raccogliere il botto inesploso, e tanto comunque c'è qualcuno che gli zompa la manina. Quella ha ragione, però mi scusi, anche quest'altra cosa, lei è un uomo di cultura, lo può dire forse lei, la Raggi, ma se lei può dire quante saranno le famiglie che comunque faranno 10.000, non lo so, 5.000 a Roma, ma questo provvedimento a chi si applica? Beh, guardi, io infatti non vedo l'ora di vedere che succederà la notte del 31, me ne andrò a spasso, cioè, per vedere, sarà un'esplosione di botte che non finisce più a Roma. Chi è che prende? L'unico che prende la multa deve venire in trasmissione da lei. Assolutamente. Cioè, deve farci una trasmissione. Cioè, poi i vigili di Roma, già l'altro Capodanno... erano stati colti da una sorta di dissenteria di gruppo, chissà quest'anno che si inventeranno, ma per carità, anche quello, cioè, anche queste sono quelle misure, se avesse fatto, diciamo così, un appello alla, diciamo, la civiltà dei romani, questo potrebbe essere anche interessante, ma come sempre le proibizioni, questa poi che non ha senso, risultano quasi ridicole. Ha senso, bisognerebbe stare più attenti al mercato clandestino dei botti pericoloso, quello sì, devo dire, ma non è solo Roma, è anche altri comuni lo stanno vietando, quello sì, perché veramente girano, ci sono sempre gli informati furbasti che ti dicono, se vuoi la roba quella forte so io dove portarti, c'è sempre l'omettino che sembra preso da un film di Totò, che ti apre il cofano della 126, dentro c'è una Santa Barbara. Alessandra, chiudiamo con Alessandra. Alessandra? Pronto? Sì. Sì, beh, va bene, molto velocemente ricollegandomi a questa cosa. Scusa, non sento, cosa dice Alessandra? Ah, sto dicendo un pochino di libertà per chi non, li vuole non fare. Alessandra, scusi, parli più forte che non sento, qual è il problema? No, dice negare non si può. Allora, però tutte le persone che fanno i botti non li fanno proprio sotto alla propria abitazione, e quindi? Sotto il proprio luogo, quindi insomma sarebbe auspicabile. Va bene, a parte questo volevo intervenire per dire un'altra cosa, avete detto mani, occhi, però io da quello che so, da persone conosciute, hanno perso completamente l'udito per lo scoppio di petardi proprio a fianco a loro. Quindi cioè, non sono diventati, non ho capito cosa ha detto, scusi, che la sento malissimo. dico, ci sono state delle conseguenze che non riguardano solamente la vista, le mani, ma anche la sordità, l'udito. Persone che sono diventate sorde. Per cosa? Per lo scoppio dei petardi. Delle orde di persone? No, dello sorde, mancanza di udito, udito. È saltato un dito, è saltato un dito, l'abbiamo già detto. Ah, Che è saltato un dito. Le dita, sordità, la sordità. Non mi sente? No, purtroppo no. La sordità, l'udito, il sentire. Guardi, veramente è forse un problema mio, non so cosa voleva dire, ma evidentemente è importante il contributo della nostra ascoltatrice. Attenzione, vi saltano, come ha detto la signora, le dita se giocate con i giochi artificiali, ma poi vedremo cosa succederà dopo il 31.